che forse te non cederò, non fiorirò. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, giusto di poche bellezze troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché viva sarà vivo in me solo per te.